Maniago, culla dei coltellinai. Ventesima trasmissione dedicata agli emigrati. Il 19 marzo 1955, nella cornice primaverile che ne infiora i clivi solatii, Maniago ha solennemente inaugurato un nuovo ospedale civile. La gioia per la sospirata conquista della sua gente operosa si dilata nel tepore dell'aria con i motivi delle musiche popolari, con lo scampanio festoso della vetusta torre di San Mauro che inonda la piazza architettonica di echi armoniosi. Maniago annunzia così ai suoi figli vicini e lontani che il moderno imponente edificio è sorto col concorso di tutti i cittadini, di tutti gli enti interessati alla sua realizzazione. Come ci spiega il presidente dell'ospedale stesso, anche a nome del sindaco della piccola Solingen italiana, della piccola italiana Sheffield. Gli operai delle più che 100 officine della zona offersero il 2% del loro salario, imitati dagli industriali, assecondati dagli 11 comuni del mandamento e dallo Stato che non ha lesinato contributi finanziari e cantieri di lavoro, nonché dagli emigrati che a più riprese hanno generosamente inviato i loro risparmi. A tutti la profonda, commossa riconoscenza dell'intero maniaghese. È costato 200 milioni, un miracolo di concorde volontà sviluppatosi nel solco della fede. L'ospedale è dedicato all'Immacolata Concezione. È delle tradizioni dei padri, onde ci consente di guardare con serena fiducia all'avvenire. Ai fabbri del maniaghese si devono del resto anche i ferri chirurgici in dotazione al Neo Istituto, capace di oltre 100 letti. Quei ferri che il solo Anduins della remota Val d'Arzino esporta in 22 paesi, dall'Australia al Cile, dalla Svezia al Sudafrica. Lucidi più che l'argento escono dalle mani nere di artigiani legati da padre in figlio alle officine azionate dai precipiti torrenti o dall'energia elettrica fornita dagli sbarramenti del Cellina e del Meduna. Ascoltatela, la voce dell'acqua, alla quale si fonde il vorticoso rotear delle pale percosse dalla candida massa liquida e si confondono gli squilli isocroni dei magli e lo stridio delle mole. Fabris di Manià, Fabri di Maniago, la loro umana vicenda dà veramente ali alla poesia. Uno di essi, Antonio Rosa detto Brustolo, 1848-1923, canta con ingenuità: all'alba d'ogni mattina, nell'umil me officina, cun fede condut cor, e mi metta al mio lavoro. E i passi la giornata, fe tanto al chi chantata, contente beato d'avei lavorato. Arrivata la sera, la coscienza netta, e mi mezzo la pleta. E pronta la mattina, allegri minighina, come zia balà, i torni a lavorare. Poi è la volta di un discendente da una generazione di Fabris, il quale si ispira al rombo della propria officina, da cui escono e vanno per il mondo coltelli e forbici, pinze e spatole, temperini e cazzuole, bisturi e trinciapolli. L'autore in persona, Germano Beltrame, vi dice il suo inno al fabbro di Maniago. L'acqua del Collera scende serena, narrando sempre la cantilena al vecchio fabbro coltellinaio. T'aiuto io a temprar l'aggiaio. Tu de coltelli sei re, sei mago, fierezza e gloria sei di Maniago. Batte il martello allegramente, sopra l'incudine tanto paziente, l'eco risponde da mane a sera, nella fucina si tetra e nera che assomiglia all'antro d'un drago, ma che è storia e onor di Maniago. Anche la mola scorre veloce, mordente, rabbiosa e feroce, sprigionando faville lucenti per far belle le lame taglienti e appuntirle al pari d'un ago per far sempre più grande Maniago. L'acqua del Collera scende serena, narrando ancora la cantilena al nuovo fabbro coltellinaio, lavoratore dal cuore gaio, che nel travaglio oppur nello svago tutto il suo mondo trova in Maniago.